La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю я. Sì, bisogna che mi rassegno. Siamo arrivati al 2011. Che impressione. Da piccola mi chiedevo sempre: ma ce la farò arrivare al 2000? Invece lo abbiamo superato di parecchio. Qui è molto bello nell'inverno. C'è tutto, c'è stato tutto. La luna, la tempesta, il sole, le nuvole. E qui è come... ci sono due versi di Edna St. Vincent Millay che dicono: Signore, io temo che tu abbia fatto il mondo troppo bello quest'anno. Però certo è passato un altro anno, adesso ci ripenso. E come la mettiamo col tempo che passa? Siamo sempre più vecchi, cioè io personalmente. Cioè, c'è da dire che non è che me la prenda molto per un fatto, perché io per fortuna cambio età molte volte al giorno. È difficile che mantenga la stessa età per più di mezz'ora. E questo non è per calcolo filosofico, ma per spensieratezza naturale, perché io sono come l'oca del Gozzano. L'oca del Gozzano che dice... cioè Gozzano dell'Oca. Penso ripenso, che mai pensa l'Oca, gracidante alle rive del canale? Pare felice, al vespero invernale, portendo il collo giubilando roca. Salta, starnazza, si rituffa, gioca. Né certo sogna d'essere mortale, né certo sogna il prossimo Natale e l'armi coruscanti della cuoca. O papera, mia candida sorella, tu insegni che la morte non esiste. Solo si muore da che sei pensato. Guido Gozzano. La differenza da I colloqui. Io spesso, cioè non è che uno è vecchio tutto il giorno, questo se lo credono i giovani, ma non è vero. Chi ha questa esperienza lo sa. Io mi dimentico, ti dimentichi la tua faccia, poi magari cammini spensierato, una vetrina all'improvviso. Sai, c'è quell'istante, no? Che non si vede prima di riconoscersi. E dico, e chi è sta vecchia? Sono io. E mi coglie un'esultanza selvaggia d'essere ancora al mondo. E dentro di me corro in tondo. Avete visto i cani quando li liberate improvvisamente in un prato? E mi sembra di sentire la canzone di Sergio Reggiani, che spero mi accompagnerà nel 2011, che è vivere, anche senza casa, anche senza scarpe. Vivere. È la mia ultima volontà. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Insomma, io sto molto bene al faro e mi piace la solitudine. Tuttavia, mi piacerebbe anche molto sentire qualcuno di quelli che ascolta. Per cui, se volete entrare in contatto con me, che ci telefoniamo, ci parliamo, potete chiamare l'800-28-1111 oppure scrivere a laguardiana@radio24.it. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. La mia ragazza è stata allevata dalla nonna vedova, agiata e con tanto tempo da dedicarle. Lei le vuole bene, ma è egoista. Per esempio, non bada se passa il Natale da sola. È l'unico lato sgradevole della mia fidanzata. L'ho rimproverata per questo, ma lei si mette a ridere. Io da estraneo ho notato delle sfumature della nonna, addirittura delle civetterie e una specie di amarezza quando la nipote va alle feste tutta bella e piena di corteggiatori. Ahimè, non so che farci se è così bella. Ho fatto una scoperta. Anche la nonna si sente donna. Ha 79 anni, è sempre ben vestita e spesso cambia pettinatura, ma nessuno lo nota. Insomma, la nonna ha nostalgia dell'amore. Il giorno di Pasqua ho architettato una bellissima burla. Le ho mandato un uovo enorme, di quelli che quando lo vedi in vetrina pensi: ma chi lo comprerà? Io, accompagnato da una lettera, dove mi dicevo un suo ammiratore segreto.

come Rossella O'Hara, però in verità mi ridevano dietro. E lei era proprio bella. Cioè, da me ne sarei innamorata anch'io se non l'avessi odiata. E poi la disprezzavo anche, perché lei, essendo amata da lui, non lo sceglieva. La disprezzavo perché non potevo concepire che lei non lasciasse all'istante il suo ragazzo e non galoppasse verso di lui. Lui diceva che l'amava, però stava sempre a ridere con me. Con lei piangevano sempre. Piangevano per il fatto che la sorte li teneva divisi. Invece con me rideva. E ci sono certe risate che si fanno soltanto quando ci si innamora. Quando si ride di tutto perché ogni poro, ogni capello scoppia dalla gioia di essersi trovati. Io lo sapevo, lui ancora no. Aveva bisogno di un colpo di teatro, di una rivelazione, di una spinta. Ci metto una notte e mi invento una bugia. Semplice ma perfetta, un gioiello di bugia inattaccabile. Gli annuncio di colpo, come se non mi importasse niente di lui, anzi entusiasta, che sto partendo per gli Stati Uniti, che ho vinto una borsa di studio, che finisco là all'università e che comunque il mio futuro sarà lì. Insomma, un addio. Mi batteva il cuore. Che farà? Mi farà tanti auguri? Invece, come speravo, gli cade la faccia. Mi guarda senza parole per 2-3 anni. Cioè, qualche secondo mi sembra moltissimo. Ci pensa e mi dice la cosa più semplice del mondo, quella che io speravo. Ma come? E io come faccio senza di te? Cioè, per la prima volta si è pensato senza di me. E senza enfasi mi dice: tu non sai come ti avrei amata. Mai c'era stata una parola d'amore tra di noi. E poi mantenne la promessa. E questo è il potere della burla. In un istante aveva capito. Cancellata la raffinatissima. Io nell'euforia avevo un bicchiere d'acqua in mano, gli butto l'acqua in faccia, l'avevo visto al cinema. E lui mi bacia. Dissolvenza. Fine. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto, Lietta Manganelli, figlia dello scrittore Giorgio, è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, sei Lietta? Sì, ciao Barbara, sono Lietta. Lietta è la figlia di Giorgio Manganelli e i giovani magari non sanno chi è. Giorgio Manganelli era un uomo piccolino con un grande naso. Era un genio. Era un genio delle lettere, dell'insolenza. E la letteratura non è una malattia ereditaria, ma la figlia Lietta l'ha ereditata e sta facendo rivivere la persona e l'opera del padre con la sua stessa irriverenza e con lo stesso matto eroismo. È stata separata a lungo da suo padre perché a casa sua non si poteva nemmeno nominare e c'è stata una lunga corrispondenza fra loro, finché poi un giorno: Lietta, mi racconti allora com'è che è avvenuto l'incontro con tuo padre? Sì, io a circa 18 anni a un certo punto io sono tipo da decisione all'improvviso, mi stufo, decido che io sono stufa di essere orfana di signore che c'è e vado e mi presento a Roma. Nota che per tutto erano, non sono i tempi di oggi, ma parliamo degli anni 60, in cui non era neanche tanto normale che una si pigliasse e andasse. Poi io arrivo a Roma, sapevo dove mio padre abitava, alle 7:30 di mattina, e che a Roma è una specie di delitto, vado a suonare un campanello che secondo me è casa di mio padre, ma solo secondo me. Non eri sicura? Non ero sicura mille per mille. Mi apre un signore che io non riconosco assolutamente. Nella mia testa, io l'avevo visto 3 anni l'ultima volta, quindi mi ricordavo un signore lungo, lungo, lungo, lungo, allampanato, magrissimo. E lo ritrovi piccino. Ecco, mi viene ad aprire un signore tracagnotto, alto finché vuoi, ma molto robusto, con la pancia e le bretelle, e quasi pelato. A me mi piglia un accidente, dico: Dio, a Roma alle 7:30 di mattino ho suonato alla porta di uno sconosciuto. Qui cosa mi succede? Dopodiché quello mi guarda con quei suoi occhi, mi guarda così attonito, come dire: scusi, lei chi è? Al che io gli dico molto timidamente, che è molto manganelliano: scusi, lei è il professor Manganelli? Risposta: sì, va bene, allora io sono tua figlia. E questo è già carino. Il fatto è che non finisce qui, perché con mio padre le cose non sono mai così semplici. Mi fa entrare, cominciamo a chiacchierare, sai, molto timidamente, della serie: come sei arrivata, come stai, la mamma lo sa, tutto bababà, quando una scampanellata violentissima ci fa sussultare, mio padre guarda dallo spioncino, la sua porta aveva uno spioncino, mi prende per le spalle, mi butta sul terrazzo e mi chiude dietro la tapparella. Ora, povero uomo, soprattutto c'era una cosa che lui di me non poteva sapere, visto che comunque erano 15 anni che non ci vedevamo. Io soffrivo e soffro tuttora in modo estremamente violento di claustrofobia. Quindi sono rimasto un'ora e un quarto con la schiena appoggiata alla tapparella, con le braccia aperte, immobile, in questo balcone a guardare i tetti di Roma, che dicono sono tanto belli, credo di non aver mai odiato una cosa come quella in quell'ora e mezza, sentendo dietro di me urla, cose che cadevano, una vita impiccata. Che cos'era successo? Dopo un'ora e mezza mio padre mi libera, un pochino sudato e stravoltino, e gli dico cos'è successo? Era un creditore, cosa è capitato? Era un uomo, quindi non posso neanche pensare a una fidanzata abbandonata. E la risposta è stata no, nulla, era un collega che ha qualche problema nervoso ed era venuto a farmi una scenata. La spiegazione è molto semplice, era Carlo Emilio Gadda, il quale aveva deciso nella sua testa, povero uomo, per carità, Carlo Emilio Gadda, come mio padre, soffriva di complesso di persecuzione, si era fissato che l'Ira della tragedia, che era appena uscita, era una parodia della cognizione del dolore, perché in entrambi c'è una madre stramba, e questo è il dubbio. E mio padre, che cercava di spiegargli che se aveva una madre matta per uno, non ci poteva far niente né uno né l'altro. Teniamoci la nostra e stiamo calmi. Vabbè. A questo punto, vabbè, ricominciamo il discorso, però mio padre non è tranquillo e lo vedo, è teso. E a un certo punto mi fa, vabbè, dai, andiamo. Dico, mi porterà fuori a cena, a pranzo, non so, usciremo. In realtà mi porta in un ambulatorio, suona, viene a aprire un signore senza camice, per fortuna, e mio padre gli dice, senti, questa è mia figlia, gli dai un'occhiata, era il suo psicanalista. Quasi due ore di colloquio fra me e questo luminare, perché era quello che aveva sostituito Bernard, dopodiché usciamo e questo signore tranquillamente gli dice, guarda, Giorgio, secondo me tua figlia sta benissimo, non c'è niente, non ha problemi di quelli che tu mi raccontavi, che pensavi tu. Al che mio padre finalmente si distende e incomincia con me quel rapporto che, come diceva lui, non è tra padre e figlio, ma è fra due amici che si vogliono molto bene, che casualmente, per un caso del destino, sono anche padre e figlio. È in arrivo un messaggio nella bottiglia da parte di Giordano. Cara Barbara, ho amato una vedova con tre figli. La volevo sposare, ma non ero simpatico ai ragazzi e ho dovuto mollare il campo. Me la sono dovuta levare dalla testa perché lei ha preferito loro. Ho scritto ragazzi fra virgolette, ma quali ragazzi? Dei mostri di egoismo, dei divoratori, che mi rovinano anche nel ricordo i momenti più belli con quella donna che, lo so, era quella giusta per me. Caro Giordano, ma i figli sono egoisti. Lo sono per definizione. Lo sono per condizione. Ma li hai visti i cuccioli degli animali? Li hai visti i cagnetti, i gattini, i porcellini feroci che si attaccano al seno delle mamme, succhiano la vita, sono nati per quello e non la lasciano stare un momento. Tu, Giordano, parli come se questa donna che hai amato e che ami ancora fosse solo vittima dei suoi bambini. No, invece, perché è duro da pensare, ma probabilmente loro le danno una felicità più completa, più ingiusta e perfetta di quella che gli dai tu. E agli occhi di lei sono più affascinanti di un uomo. Sai, anche noi donne cosiddette moderne, noi donne emancipate, siamo delle gran chiocce, siamo delle mamme gatte, e l'egoismo dei figli legittima il nostro. Un uomo, invece, un uomo è una faccenda più complicata. I modi di reagire al tradimento di un marito sono moltissimi. Ci sono anche le machiavelliche cornute, di cui è un esempio questa storia. Zerlina è l'amante di un uomo sposato che ha tre volte i suoi anni, diciamo 25-70. Parlando con la padrona della merceria, che è una sua amica e da cui acquista sempre la biancheria speciale, si vanta del suo amante. Mi ama sempre di più. Pensa che sta lasciando la moglie e viene a vivere con me. Sai, la moglie di lui è un tesoro. Non mette i bastoni fra le ruote, non ricatta, non frigna. Sai perché lo sa, si rende conto con quelle rughe spaventose di non poter competere col mio visino di mela. Poi un giorno, Prima si vanta. Poi un giorno arriva la sua amica tutta scura e non ha nessuna voglia di parlare e di vantarsi come al solito. E l'altro le dice: ma che hai? Lui si è rimangiato le sue promesse? Ma no, figurati, la casa è pronta, ci andiamo a vivere domani. Ma allora perché questa faccia? La moglie. Ah, lo sapevo. Al momento buono ha cominciato a ostacolarvi. No, anzi, è troppo d'accordo. Pensa che aveva appuntamento con lui per vedere la casa. Invece, lui non poteva venire e ha mandato lei. Vado all'appuntamento e mi trovo la moglie. Cordialissima! E mi dice che è stata lei a trovare l'appartamento per noi due. Anzi, parla senza imbarazzo di lui, di me. Tutta rapita dice: ah, sai, non l'ho mai visto così innamorato. Allora l'amica dice: ma come, non sei contenta? E Zerlina esplode. E no, come contenta? Come si fa a lasciare una donna così? Io, se lui mi tradisse, gli spaccherei la testa. No, capisci? Se le do corda, lei non si fermerà. Verrà a stirare le camicie, a rifarci il letto. Ma che vuole da noi? Favorisce le tresche del suo bambino? Tanto sa che tornerà? Io non la voglio fra i piedi. Lei non è gelosa? Io sì. Crepo di gelosia. Che devo fare? Risponde l'amica. Come fai, fai, sei fregata. Con una moglie mamma mezzana non c'è battaglia. Zerlina esce dalla merceria. Poco dopo ci entra la moglie del suo amante. Scattante, rugosa, un bel naso a becco, l'occhio astuto e anche un odore metallico, come se sotto l'abito nascondesse una divisa militare d'alto grado. Non dà confidenza. Seria, chiede di vedere biancheria hard. Non le basta mai. Le giarrettiere non schioccano abbastanza, il tanga non è velato a dovere, finché scegliono insieme molto porco. Il commesso in carta, cercando di nascondere quello che pensa, ma ce l'ha scritto in faccia. La immagina mentre cerca di riconquistare il marito, calzando il suo culo di vecchia asina con quella miss. Invece sbaglia. È un regalo da consegnare a domicilio. Ci scrive sopra l'indirizzo e la padrona della merceria e il commesso, sconvolti, scoprono che quella roba è per l'amante del marito. Il commesso non si tiene, vede la grandezza del disegno ed esclama: signora, lei è il von Clausewitz delle mogli, perché effettivamente è una strategia molto originale e anche molto spericolata. La storia come finisce? Finisce che un von Clausewitz, come tutti gli strateghi, vince. Già Zerlina non ne poteva più dell'intromissione della moglie, ma quando riceve la biancheria sexy non resiste più e le fa una piazzata e le grida: ma lei si vuole infilare nel nostro letto, si levi dai piedi, hai capito? E lui è lei che parla con l'amica, incazzatissimo con me, dice che lei è una signora, io no, per questo non la posso capire. Però una cosa l'ho capita: quanto sono sposati gli sposati. M'ha piantato perché ho offeso quella santa. E la santa se l'è ripreso? Sì, ma al solito modo, c'è già un'altra. Per stare in due, loro devono essere in tre. Però questa gliela scelta direttamente la moglie. Capitaneria di Porto. Telefonate in arrivo per Barbara Alberti. Pronto, chi mi chiama? Sono Francesca da Milano. Ciao Francesca. Salve. Volevo raccontarle la mia storia, che praticamente è una storia di solo sesso con questa persona, ormai da 2 anni e mezzo. Persona, un uomo? Sì, un uomo. Sono 2 anni e mezzo che va avanti, però non ci sono sbocchi in una storia d'amore di quelle magiche, ecco. Ma perché il sesso che fate non è magico? Il sesso che facciamo, sì, per quanto mi riguarda è magico, per lui probabilmente è semplicemente sesso. Quindi lui fa sesso e lei fa l'amore? Sì. Ma lui sa di essere per lei più di quello che lei, Francesca, è per lui? Sì, lui lo sa. Gli piace? Diciamo che lo fa sentire pieno di sé, anche perché lui non ha altre donne con cui esce o comunque ha storie, però solo lui ha solo me e mi cerca comunque sempre lui. Guardi, il trucco classico, anche se io sono molto contraria ai trucchi in amore, perché chi fa i trucchi in amore poi avrà un amore truccato, sarebbe di fargli credere che ha un altro, di ingelosirlo, di fare quelle cose meccaniche per cui poi le persone si scatenano, no? Invece io devo dire, farei il contrario. Un giorno o l'altro proprio gli direi apertamente, ma non timidamente, ma neanche sfacciatamente, semplicemente come lo sente, tutto quello che sente per lui. E poi gioca, tira i dadi, quello che viene, viene. Magari lui si allontana, magari lui si avvicina, magari resta come prima. Però l'idea, io penso che sia in fondo molto bello, come in Ultimo Tango a Parigi, vedersi in una camera per far l'amore. Ci deve essere una grandissima tensione. Però è anche una cosa di grande sofferenza pensare che lei deve fingere di essere indifferente. Ecco, a questo non dovrebbe adattarsi. Esatto. Ma l'ha mai fatto? Cioè, lei cosa fa con lui? Per orgoglio fa finta che gliene importi meno di quel che gliene importa? Sì, ogni tanto sì, non sempre purtroppo. Ma lui sa tutto tanto. Lui sa tutto, io a lui... Lui sa tutto anche perché, guardi Francesca, possiamo dire quello che vogliamo, ma i corpi si parlano. Esatto. I corpi si parlano e funzionano molto meglio delle parole, quindi lui sa benissimo. Chissà che non sia un grande dispetto reciproco, lui non dice e lei non dice. C'è questa strana monogamia, gli altri sanno di questa storia? No, quasi nessuno dei miei amici, solo le mie amiche, che tra l'altro sono amici comuni, visto che noi usciamo insieme nella stessa compagnia. No, quindi anche diciamo che gli amici fanno finta di non saperlo. Esatto, sì, sì, gli amici fanno finta di non sapere, tutti, esatto. Ecco. Quindi lui fa questo gioco romantico, erotico in fondo, no? Cioè sì. L'idea di essere del segreto. Però sotto sotto è il segreto di Pulcinella. Esatto, che comunque tutti sanno. Comunque, senta Francesca, mi sembra una storia viva. Mi sembra una storia viva, mi sembra un gioco. Io l'abbraccio e la saluto. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sto con una ragazza. Sono una ragazza, ma non è questo il problema, anzi. Per 2 anni siamo state così bene. Ma adesso lei sta dimagrendo, mangia poco, e ho scoperto che quel poco poi va in bagno a vomitarlo. È l'inizio di una tendenza anoressica. Io voglio curarla. Lei dice che non ha bisogno di medici. Nega. Dice solo che è un periodo che non ha tanto appetito. Prima ci dicevamo tutto. Non ha più confidenza con me e questo è terribile. Che posso fare per aiutarla? Sandra. Ma se la vuoi aiutare, guarda, soprattutto non considerarla solo una malattia. Perché nell'anoressia c'è molto di più. Ci sono spinti emotivi che la rendono davvero pericolosa, ma anche molto seducente. Io immagino, Sandra, che se tu avessi voluto il parere di uno specialista ti saresti rivolta a uno psicologo o a un dottore, cioè gente che sa. Quello che ti posso dare io è una visione arbitraria, una visione visionaria di cosa ho potuto vedere nella mia esperienza, su di me e sugli altri. E non dimenticare mai che le più grandi anoressiche sono state delle sante, come Santa Caterina da Siena. Perché l'anoressia è una delle grandi utopie umane, come il volo. È la pretesa di ignorare il corpo, di superarlo. L'anoressico tende a diventare anima. Nell'anoressia c'è la sfida, una immensa testardaggine e un eroismo occulto. E prima di questa attuale abbondanza così equivoca... Ah, ecco, questo messaggio l'ha scritto una madre... Ho scoperto che mio figlio è omosessuale e ho paura che soffra. Ma come? Aspetti di sapere che è omosessuale per avere questa paura? Ma scusa, ci dovevi pensare prima di metterlo al mondo? Facendolo nascere lo hai condannato alla vita, quindi anche al dolore. Ma perché tu credi che chi ama le donne non soffra? E poi un'altra frase, sempre dello stesso messaggio nella bottiglia. Dov'è che ho sbagliato? Ecco, guarda. Quando sento questa frase veramente avvampo di sdegno. Ma scusa, primo, l'omosessualità non è uno sbaglio, non è che devi ripercorrere tutto individuando l'errore. Non è uno sbaglio l'omosessualità, è un'inclinazione. E poi c'è anche dietro la presunta onnipotenza dei genitori, i quali credono di poter determinare il destino dei figli sperando, tra l'altro, che vengano fuori i loro cloni. Perché dove ho sbagliato vuol dire perché mio figlio non è identico a me? Beh, guardati allo specchio. La mamma è una gran cosa, eh. È disposta a strapparci il cuore e a mangiarselo pur di fare il nostro bene, ovvero esercitare il suo potere, scegliere per noi. La mamma che approfitta di un caso della natura per arraffare una creatura e farne ciò che vuole. Poi, la madre italiana è la più spietata. Il suo amore si muove fra due modesti poli. Mi ha dato un dispiacere, mi ha dato una soddisfazione. Ma un figlio non serve per dare tante soddisfazioni. La soddisfazione i genitori se la prendono già quando li mettono al mondo, erigendo un monumento a se stessi. Comunque, alla madre che si duole appunto perché il figlio ha gusti diversi dai suoi, vorrei leggere una poesia di Marina Tsvetaeva, che è la storia d'amore tra due uomini. Che me ne faccio delle nubi e delle steppe e di tutti i larghi spazi sotto il sole? Sono uno schiavo che ama le sue catene, che benedice la Siberia. Ehi voi, che fate il viaggio di ritorno! Un saluto alle grandi città. La mia miniera carceraria per tutta la libertà non venderò. Un saluto a te, città di Dio, Kiev. Un saluto a Mosca, alla capitale. Un saluto, mie faccende mondane. Sono un figlio che non si rammenta dei padri. Mi ha stregato contro la santa luce di Dio il grande capo minatore. Ah, la Maria delle Acciughe è l'unica che è riuscita a venire persino a profanare il faro. Maria, Maria. Sì? Hai un'altra storia? Ne ho tante. Per fortuna. Beh, potrei raccontarti la storia del... La storia è che noi siamo tutte donne in famiglia, tutte donne, tutte streghe. Cioè, nascono solo femmine? Nascono solo femmine da quattro generazioni e poi non solo noi, ma anche i nostri animali. Avevamo per esempio, non so, due gatti, maschio e femmina, uno era bianco e l'altro era rosso, e sono nate miracolosamente cinque femmine tutte nere. E qui siamo tutte donne. La favola preferita di mia madre è la favola di Pollicino. E mia madre ha sette nipoti femmine adesso, e quando è nata l'ultima ha detto: oh, finalmente sono sette come le orchette di Pollicino. Mia nonna si chiamava Elide ed era bellissima, e aveva questo marito gelosissimo. È stato geloso di mia nonna fino a 90 anni, mio nonno Gino. Era geloso del giornalaio, dell'autista, era geloso di tutti. Una volta lei era già vecchia e un signore in un ristorante le ha chiesto: senta signora, lei è troppo bella, posso fare una foto? E lei ha detto sì, era poi vanitosissima. Ha detto sì, il nonno si è così arrabbiato che gli ha spaccato la macchina fotografica. E quando la corteggiava, quando erano ragazzi, lui andava in calesse a trovarla, perché la nonna insieme alle sue sorelle aveva un ristorante che era anche una stazione di posta e dove i viaggiatori poi cambiavano i cavalli, ed era un ristorante in un posto che si chiamava Ponte Guerro, perché era un ponte vicino al Panaro, dove la mia bisnonna pescava i pesci gatti e gli dava da mangiare ai clienti che si fermavano lì per riposarsi un po'. E il nonno era così innamorato di lei e sempre, quando raccontava la prima volta che l'aveva incontrata, diceva che aveva degli occhi color zaffiro, dei capelli furenti, lui era innamorato pazzo. E quindi ha cominciato a essere geloso da subito, sempre con delle scenate anche vergognose, devo dire. E lei mi ha sempre detto in tutta la sua vita: guarda Maria, gli uomini sono tutti maiali. E me lo diceva sempre. Dopo, con gli anni, ho capito che era vero, ho imparato a conoscere i maschietti, anch'io. Questa è la nonna Elide. La nonna Elide aveva una sorella che si chiamava Ada, era la più brutta di tutti, però lei si vantava di far sempre l'amore, di avere mille uomini, così. E lei diceva che aveva fatto talmente tanto l'amore che uno dei suoi amanti le era morto nel letto. Almeno lei si vantava così, ma non so mica se era vero. Quando la ziada cominciò ad avere intorno ai 70 anni non aveva più occasioni, e quindi noi ci inventavamo degli amanti, la facevamo chiamare dai nostri amici maschi, che gli dicevano: Ada, come sei bella, tu sei meravigliosa, con questi nostri amici con delle voci bellissime: Ada, sei stupenda, ti abbiamo visto al supermercato. E lei: sì, è vero. Insomma, ci stava da morire lei. Poi delle volte chiedeva di incontrarli, e lì era difficile perché non potevamo. Poi arrivava a casa nostra e ci raccontava appunto che aveva tutti questi corteggiatori che telefonavano, e noi a tavola a ridere come pazze, con mia madre incazzata nera, cioè non potete prendere in giro la zia così, si arrabbia ancora adesso. Invece noi facevamo, abbiamo fatto dei gran piaceri, perché lei era contentissima di avere tutti questi corteggiatori. Non eravamo crudeli, come diceva mia madre, eravamo buone. E poi, poi c'è mia madre, che è il pezzo forte. Mia madre ci ha sempre detto che noi siamo tre deficienti. Noi non ci abbiamo creduto, però insomma ogni tanto sì, ogni tanto ci viene il dubbio. Comunque, mia madre da piccola era bruttina. Era bruttina, ma poi come nella favola del brutto anatroccolo è diventata un cigno. E aveva, come nelle fiabe, aveva tre sorellastre bruttissime. Una sembrava Batantuono. L'altra è un maiale, insomma, era bruttissima. E lei invece era meravigliosa. Come si muoveva, le fioccavano dichiarazioni e grandi corteggiamenti, spasimanti. Le succedevano delle cose strane, per esempio, non so, una mattina usciva, ma così, ma sempre, era un classico. A parte che avere una madre così bella e così corteggiata è molto difficile per essere figlia di una così, perché perdi sempre. Cioè, tutte le volte che ti metti in competizione perdi. Comunque lei usciva, andava dall'oculista con mia sorella e l'oculista gli chiedeva il numero di telefono, diceva, con la scusa degli occhiali. Poi andava al fruttivendolo, lei adora le cipolle, mia madre, e il fruttivendolo diceva, guardi, la spesa gliela regalo, signora. Poi tornava a casa in taxi, quello è successo tutta la stessa mattina, tornava a casa in taxi, quant'è? E il taxista ha detto, guardi signora, niente, perché lei ha degli occhi troppo belli, io gli ho visto lo specchietto retrovisore, quindi io non voglio niente. Poi è arrivata a casa, appena arrivata a casa ha telefonato l'oculista, dicendo, guardi signora, io oggi ho chiesto il suo numero, ma io sono rimasto sconvolto, quando l'ho vista io ho perso la testa. Poi pazza completamente, da piccola lei rubava i santini in chiesa e poi li vendeva, e diceva offerta libera. Poi rubava anche l'elemosina in chiesa, poi contava il gruzzolo e poi rimetteva dentro la metà, quindi si sentiva anche salva. Questa è mia madre. Poi c'è mia sorella Claudia, che è una donna invisibile come Emily Dickinson, e la legge sempre, le piace molto. La Claudia si vede in giro due volte all'anno, ha una bambina come lei che fa i puzzle al contrario. Poi c'è mia sorella Anna, che è la più piccola, che ha quattro figlie ed è la più assenata della famiglia, mangia i fiori. I maschi con noi dopo un po' se ne vanno e così noi possiamo fare tutto quello che ci pare senza che nessuno ci richiami all'ordine. Gli sprechi classici delle donne senza briglie, delle streghe indomabili, vestiti, scarpe, profumi, quintali di pane se ci va, così. Non è che i maschi per noi sono come fuchi, però forse, chissà. Noi li trattiamo bene, ma loro se ne vanno lo stesso. Muoiono, partono, se li rubano le altre soprattutto. Insomma, non ci sono. Vi saluto con una poesia di Pound, che si intitola Congedo da un amico. A settentrione delle mura, monti azzurri. Qui dobbiamo separarci e andarcene per miglia e miglia di erba morta. Il tramonto, simile all'addio di vecchi amici, che di lontano si inchinano al di sopra delle mani congiunte. I cavalli si nitriscono l'un l'altro mentre partiamo. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.